Picchetto, Picchetto, Picchetto, Picchetto, Picchetto. Ciao, sono Federico Laurenzi, faccio parte del reparto L'Aquila 1 del Suzzala e oggi sarò il vostro presentatore insieme a... Insieme ad Angelo Fichera, che fa parte dell'equipaggio Squalo. E benvenuti a tutti a Radio Picchetto. Di cosa parliamo un pochino oggi? Beh, io direi un po' di nautica, soprattutto del rafting, che è stata una delle più belle esperienze che ho mai fatto, secondo me. La cosa che ho fatto soprattutto quel giorno è stato canottaggio, che è la cosa più semplice che riesco a fare io. Beh, anche io, però all'inizio è stato un po' difficile imparare perché è un'esperienza nuova. Io vengo dall'Aquila, dove ci sono i monti, non l'ho mai visto praticamente il mare. Io invece con la canoa già sono un po' abituato perché sono nautico. Invece con la barca a vela, che non ho mai fatto, ho fatto solo un giro, ma dalla tremenda paura proprio. Poi alla fine l'ho fatto. Beh, diciamo che però è stata una bella esperienza, a parte tutto. Sì. Cantiamo una canzone? Beh, certo. Se la pioggia cadrà? Se la pioggia cadrà, se la pioggia cadrà, e tutto bagnerà, e tutto bagnerà. Se la pioggia cadrà, se la pioggia cadrà, e tutto bagnerà, sarà. Solo per voi le canzoni che cantiamo noi. Country Road, Take Me Home. La prossima canzone. Ma una delle cose più belle del campo nazionale, secondo me, è il fatto che, essendoci molte persone da diverse regioni e paesi, ci sono molto spesso interessi comuni, come noi due, che abbiamo in comune una serie TV. Questa si chiama Sword Art Online e vuoi cominciare tu la trama? Sì, la trama parte con dei ragazzi che comprano un visore della realtà virtuale molto strano e appena lo inseriscono nella loro testa entrano in un gioco dove puoi muovere qualsiasi arto del tuo corpo a tuo piacimento. Ma poi scoprono che una persona li aveva intrappolati in quel gioco e se morivano all'interno, morivano anche nella vita reale. Non continuo perché sennò... Spoiler alert. Esatto. Questa serie TV mi ha veramente appassionato. Sono arrivato fino alla fine della terza stagione, l'ultima che è stata fatta. Come l'hai conosciuta questa? Io l'ho vista su internet, tu? Questa serie l'ho conosciuta grazie a mio cugino che è molto fan. È riuscito a farmi provare Netflix per un mese e vedendo che lui aveva anche visto questa serie ho cominciato a seguirla anch'io e la trama mi ha preso subito. È stato come appena vedi la pizza margherita appena sfornata, uguale. Questa entusiasmante trama, vi consiglio di guardare anche voi questa serie che vi prenderà subito. E adesso musica con Wake Me Up di gli ABC. Sicuramente con tutta questa gente ci sono state un miscuglio di tradizioni. Uno di questi, delle più importanti secondo me, è stato il Folcorama, dove abbiamo cucinato alcuni piatti tipici del nostro paese. E per quanto riguarda il cibo, all'Aquila, in Abruzzo, da dove vengo io, c'è una cultura molto diversa dallo stile del Mediterraneo, dalla dieta mediterranea. Per esempio noi al Folcorama abbiamo fatto i cannarozzetti con ricotta, zafferano e guanciale. E il zafferano, che all'Aquila è molto usato perché abbiamo una delle piantagioni migliori in Italia, se non al mondo, di appunto questa pianta. Oppure abbiamo fatto anche le cosiddette pallotte cacio e ova, che sarebbero pecorino, fritte e impastate con sugo. Tu invece che sei di riposo, che hai fatto? Per noi dal Folcorama abbiamo preparato delle polpette sotto le foglie di limone, che avevano un aroma di limone. Cioè, in realtà sapeva più di limone che di polpetta. E abbiamo riposto uno invece ha preparato i cannoli, che è una delle nostre specialità più grandi della Sicilia. E abbiamo preparato anche la pasta con la briciola del pane. Della tua città, che tradizioni... Della mia città, allora, ci sono diverse tradizioni, molte religiose. Abbiamo per esempio il Parco del Sole con una, mi sembra, delle tre chiese più importanti dal punto di vista della regione, dove si aprono le porte, e c'è lo scheletro di Celestino V, che appunto in teoria tu, se passi sotto quelle porte, i peccati vengono tutti quanti perdonati, in teoria. Per quanto invece riguarda le altre tradizioni, vestiti e costumi sono pressoché quelli medievali perché ci sono ancora le mura. Tu invece sei del mare? Invece in Sicilia la nostra festività migliore è il carnevale, perché da noi il carnevale si festeggia in un modo meraviglioso, carri enormi, costumi di tutti i tipi e di tutti i generi. Vengono anche molte persone di altri paesi a visitare proprio nel giorno di carnevale. Adesso, dopo aver parlato di culture e tradizioni, io direi di smezzare questa tensione tramite una nuova canzone dei Daft Punk che si chiama Harder, Better, Stronger, il remix di Trap Nation. Eccola a voi. Dopo questa canzone, io direi di andare sulla rubrica letteraria di un noto scrittore aquilano, cioè me medesimo, Federico Laurenzi. Questo è un brano scritto da me e chiamato L'avvento del capo. A pochi giorni all'inizio della preparazione del campo nazionale, una tempesta di un colore rosso sangue è stata avvistata e sembra dirigersi verso il sito del campo. Questo fenomeno è veramente inusuale perché la tempesta ha cambiato più volte traiettoria. In quel momento le mie fonti mi hanno avvisato che la tempesta si è magicamente fermata. Dalla tempesta è emersa una figura dalle fattezze umane. Quella figura, in verità, era il capo scout nazionale che è venuto di persona a controllare come stia andando la preparazione del campo. È stato accolto con stupore e paura da parte dei poveri mortali che stanno osservando l'avvento di quel dio sceso letteralmente in terra. Allora il capo nazionale, con passo lento e inesorabile, si è avvicinato al responsabile della preparazione. Con tono fermo e con voce profonda ha chiesto: come va la preparazione dell'evento più importante dell'anno? Allora, sussurrando, il responsabile disse: sta andando tutto bene, come previsto. Allora il capo, con un dolce sorriso, ha risposto: bene. Ha dato l'ultima occhiata alla preparazione, finché si manifestò una fitta nebbia intorno al capo e si è dileguato insieme a quell'alone di mistero che aveva portato. Dopo questo splendido racconto, possiamo dire che anche in Sicilia si è affermato uno scrittore molto noto. Cioè me medesimo. La mia storia praticamente racconta di un viaggio di 18 ore di un ragazzo che scoprì molte cose in questo viaggio, partendo dalla rottura del motore del treno. Dopo la rottura del motore del treno cominciò un piccolo hike a sorpresa per arrivare a meta, dove si dovevano superare quattro prove. La prima prova era attraversare un lago con una canoa piena di mostri marini. Riuscita a superare con molta difficoltà. La seconda prova si basava su riuscire ad attraversare una specie di lago lavico con delle rocce ardenti. Sempre qui alcuni feriti, però tutti vivi facilmente. Alla fine, saltando le ultime due prove, trovando uno strano portale che ci portò a destinazione. Esplorando pian piano la zona dove ci aveva portato il portale, abbiamo scoperto delle strane monete che ogni notte portavano un extraterrestre sempre più strano che cercava di rubarle. Alla fine il racconto finì che riuscirono a prendersi le monete e noi a non tornare a casa, ma non siamo stati portati con un treno a casa, siamo stati portati con un UFO. La cosa strana di questo racconto. Che cosa ne pensi di questo racconto? Posso dire che sicuramente c'è molta fantasia e che immagino che eravate veramente un oggetto volante non identificato. Una pazzia nel mio cervello capita non tutti i giorni. Adesso, dopo queste opere letterarie, rilanciamo con OMG Hello. Dopo questa serata di tradizioni, cibo e cultura, possiamo dire che da Radio Picchetto è tutto. Ci vediamo. Alla prossima puntata.